minaretti sulla notte, sulla ghiaia. Ho sentito che minaretti sulla notte, sulla ghiaia. Nella camera del letto, tutta la notte la gente camminava sulla ghiaia. Ramoglio che parlava.